straordinario successo italiano coincide anche con un buon successo all'estero. I dischi di Mia Martini iniziano a circolare ad Israele, lei incide anche in spagnolo, in tedesco e in francese. Arriva addirittura a vincere uno dei più importanti festival in Giappone, il Festival di Yamaha nel 1977. Ma questa sua esposizione estera le permette anche di farsi notare da Charles Aznavour. Aznavour dice: «Non sapevo che in Italia avevate una cantante così». E fa di Mia Martini una vedette dell'Olympia, il tempio della musica leggera internazionale. Mia Martini è al culmine della sua carriera, prima di uno dei momenti più bui della sua vita. Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di pieno insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale, sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. State ascoltando un programma offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Storie di star. Rieccoci qui a Radio 24 con la storia della grande Mia Martini, incoronata, come abbiamo sentito, ad Aznavour all'Olympia, il tempio della musica leggera internazionale. Dopo l'amore, noi non siamo più soli. La vocalità di Mia Martini è molto jazzistica, molto vicina a certe interpreti nere americane. Come together right now, over me. Critica francese, Mia Martini è addirittura la nostra Edith Piaf. Eppure,